Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dear direttore, mentre da noi si sprecano fiumi di inchiostro per raccontare di foto dove si vede e non si vede, il mondo esulta. Siamo tutti felici, finalmente l'imperialista americano lascia l'Iraq e rinuncia all'occupazione e al sopruso sul popolo iracheno. Questo capiterà in agosto 2009, così ha annunciato il messia dei tempi moderni, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ogni cosa che dice e che fa sembra mai vista e sentita prima. I giornalisti riempiono le pagine dei giornali raccontandoci che finalmente il buco nero creato dall'era Bush è chiuso e il mondo musulmano può finalmente fare pace con l'Occidente. Bello, quasi irreale. Che brutta cosa la guerra in Iraq. Abbiamo visto tanti servizi alla televisione, tante immagini. Abbiamo giornalisti che raccontandoci l'Iraq da un albergo si sono guadagnati un seggio al Parlamento europeo e giornalisti che per intervistare esponenti dell'opposizione o forse membri del vecchio regime hanno fatto perdere la vita a un eccellente servitore dello Stato e anche un po' di soldi a tutti noi contribuenti dello Stato. I morti? Sì, tanti, più o meno come quelli che muoiono in incidenti stradali nella sola Italia in un anno. La guerra dura da 6 anni. Quasi 4.000 soldati americani, molti dei quali disperati in cerca di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti. Innocenti ragazzi, molti civili, per lo più assassinati da più di 500 attentatori suicidi, altri disperati arrivati in Iraq da altri paesi per immolarsi per il loro fanatismo, visto che nel loro paese era difficile farlo. In Iraq hanno trovato campo libero per questa attività. Carabinieri italiani, innocenti, che per sempre saranno ricordati a Nassiriya, dove sono stati degli idoli della popolazione, un po' meno nel nostro paese. Qualche civile. Nessuno ci parla più o più si ricorda di Quattrocchi, povero martire dei tagliatori di teste. Nessuno o pochi ci parlano del povero Baldoni, che cercava di stare in mezzo alla gente per capire e poi raccontarci della gente. Ah già, la gente, sì, il popolo, quel nucleo di persone che ha sofferto una feroce dittatura per più di 30 anni, dei quali più di 10 con regime di embargo dell'ONU, quell'organizzazione internazionale che salvaguarda i diritti dell'umanità, dopo i veti dei potenti e le tangenti intascate sul programma Oil for Food. Ma il popolo cosa pensa? Non lo sappiamo, perché nessuno ce lo racconta. Non fa business, non fa tendenza politica. Non crea bagarre o scontro politico, quindi non interessa. Cosa sappiamo veramente dell'Iraq di questi giorni? Come vive la gente della strada? Gli espedienti? Ci si alza alla mattina e si cerca di trovare qualcosa da fare. Alcuni progetti ci sono, molti di loro erano pianificati dal regime. Gli appalti sono per gli amici degli amici, per di più società di iracheni fuggiti all'estero. Gli imprenditori che avevano provato a rimanere hanno perso la vita perché presi in ostaggio dai tagliatori di teste. I molti rimasti sono per di più poveri o lower class, che non sono riusciti ad espatriare. Alcuni si sono spostati al nord, quasi indipendente, un po' più sicuro. Insomma, vivono a stento. Non ci sono industrie, non ci sono piani strategici di ricostruzione di una nazione così depressa, non c'è un piano per l'istruzione, massacrata e umiliata dal regime. Non c'è un piano per infrastrutture, per far tornare a vivere un paese in catalessi da 40 anni. Il popolo è spettatore. Spettatore pagante di questa miseria che, come molti prevedono, sfocerà in un sanguinoso contrasto per il potere dopo che i militari americani se ne saranno andati. Il popolo è vittima di condizionamenti perché la divisione della gente aiuta e giustifica il contrasto politico. Molti dicono che siamo alla vigilia dell'anarchia che si verrà a creare dopo la partenza delle truppe e che gli americani saranno invitati a tornare con la camicia dei salvatori e questa volta saranno giustificati dalla comunità internazionale. Forse anche per contrastare la voglia dei cinesi di mettere le mani sul petrolio iracheno. Mario. Egregio signor direttore, il giorno immediatamente successivo in cui il neo eletto presidente Obama dichiarò al mondo di voler porgere una mano all'Iran, io scrissi a molti giornali la mia opinione e alcuni titolarono così il mio personale parere. Obama porge una mano all'Iran e si ritroverà in mano una bomba atomica. Ora, dopo le discutibili elezioni a Teheran, ci troviamo di fronte a una situazione simile a quanto da me previsto. Daniel Pipes, che è il massimo studioso americano dell'Islam, non ha molti dubbi sullo scenario che si sta formando nell'agenda del presidente americano. Egli sostiene che utilizzare la carta della diplomazia con gente come Ahmadinejad sia tempo sprecato. Secondo Pipes, esperto di fama internazionale, Obama dovrà scegliere o accettare che l'Iran faccia ciò che gli pare con l'atomica, il che è piuttosto pericoloso, oppure bombardare gli impianti nucleari di Teheran. Non vorrei essere nei suoi panni. Marco. Volevo soffermarmi sui tristi avvenimenti che stanno avendo luogo in Iran e mi domandavo come mai girotondi, centri sociali, CISL, UIL e tanti altri movimenti che si muovono sempre per tutti i temi scottanti o che dal loro punto di vista sono trascurati dall'informazione, questa volta non si siano mossi. Altra riflessione sulle tristi vittime del sabato sera o comunque legate all'abuso di alcol alla guida. Ho sentito che si vogliono ancora una volta inasperire le sanzioni. Bene, sono d'accordo con il governo e su molte delle misure prese, ma ad un certo punto sarebbe bello immaginare un ministro che si interroghi sul motivo di come mai fra noi giovani, nonostante le dure sanzioni, si continui a bere in maniera così scorretta e quale disagio tale comportamento metta, secondo me, in netta evidenza. Gabriele. In questi giorni si vedono in TV tutte le giornaliste corrispondenti da Teheran che fanno i loro resoconti con il velo, il che significa che se da quelle parti non lo metti rischi di avere seri problemi e simili imposizioni sono tipiche della dittatura politico-religiosa dell'Iran e di altri regimi islamici con i quali, nel modo di pensare di noi occidentali, dovremmo prima o poi convivere con reciproco rispetto e tolleranza. Ma il loro rispetto e la loro tolleranza verso di noi dove sono? Con l'immigrazione in Europa di moltitudini islamiche con simili culture, non avendo la parte europea dei valori altrettanto forti di riferimento, come si può pensare che non avvenga piano piano un tentativo di condizionamento importante del pensiero islamico nella nostra società? E in parte ciò sta già avvenendo e creando un'iniziale forma di rigetto da parte dei vari paesi, che non farà altro che aumentare a causa delle differenze di mentalità che sono destinate a persistere nel tempo. Si creeranno così comunità separate con propri usi e costumi che rimarranno inaccettabili ai diversi. E così, addio integrazione. Sarà già molto se riusciremo in qualche modo a sopportarci. Fabio. Sergei Bubka, il più grande campione di salto con l'asta di tutti i tempi, tuttora detentore del primato mondiale, aveva una costante nelle sue gare. Finiva presto gli avversari. E poi faceva alzare l'asticella là dove solo i pennuti osano volare, ovvero verso record da favola, sempre più in alto, sempre più verso limiti icareschi. Dario Franceschini non è sicuramente un Bubka di scuola sovietica, lui gli avversari non li schianta, non ha i mezzi per farlo, ma con l'asticella elettorale ci gioca come un bambino imbronciato che non sa volare. Quell'asticella elettorale l'ha controllata, l'ha valutata, ha cercato di prevederne le mosse, ma alla fine l'ha spostata sempre verso il basso, come un bambino che non sa saltare. E come un bambino che non sa giocare, diventa uno che non sa perdere. Quel meno 7%, liquidato, sminuito, mimetizzato sul non raggiungimento da parte del PDL del 40%, pesa come un macigno tanto grande da dover parlare non di danni limitati, ma di muro di contenimento su Berlusconi riuscito, non di parziale sconfitta, ma di disfatta totale. Cosa bisogna fare per dire di aver perso un'elezione? Avere previsto, anzi raccontato, mettendo le mani avanti, che quell'asticella si sarebbe fermata al 22% e poi ritrovarla al 26% mi sembra poco per dire di avere vinto o quantomeno dire di non aver perso. Vedere l'avversario lontano di quasi 10 punti, seppure distante pure esso dall'obiettivo dell'asticella al 40% prefisso, mi sembra poco per dire di aver vinto o quantomeno di non aver perso. Ora, dato che l'astensionismo rispetto alle passate elezioni è cresciuto del 7% circa, ovvero numero uguale a quanto il PD ha lasciato nella tenzone elettorale, non vorrei che l'onorevole Dario Franceschini andasse a dire che quel magnifico 7 era tutto il suo elettorato rimasto a casa a educare i figli. Per Franceschini, hasta, con l'asticella, la vittoria, sempre. Michele. Ecco cosa sta facendo il governo per le imprese. Proprio oggi stanno arrivando dall'Agenzia delle Entrate molti dinieghi per le detrazioni alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo. Detrazioni che negli ultimi anni non hanno mai avuto limitazioni di budget. Quest'anno il budget è stato limitato e la modalità di selezione è stata una lotteria. Chi prima inserisce telematicamente la domanda, prima prende i fondi. Una lotteria per stabilire la meritocrazia sulla ricerca e sviluppo. Ma, a mio giudizio, l'aspetto gravissimo è che in un momento di crisi delle imprese come questo, il governo si accorge di avere la coperta corta e decide di punire proprio le imprese che fanno innovazione. Nel frattempo abbiamo buttato miliardi pur di non vedere Alitalia ad Air France e decine di milioni di euro per veti politici pur di non accorpare i referendum alle elezioni. Davide. Egregio signor direttore, non ha importanza chi ideò gli studi di settore, sia egli politicamente di destra o di sinistra. Vorrei solo averlo qui, seduto accanto a me, a cercare di compilare questo stupidissimo, inutile, insignificante, puntiglioso, provocatorio questionario, nato dalla peggior negligenza di uno statale o di un'equipa di dipendenti statali con la mente annebbiata. Per il mio settore vorrei rivolgermi a chi ha creato la struttura del modello UG70U per chiedergli come abbia potuto scagliare sciocchezze così evidenti in faccia agli italiani. Gli studi di settore sono, a mio parere, la cosa più sciocca e inefficace che il Ministero delle Finanze potesse mettere in circolazione per far perdere tempo agli imprenditori. Vorrei infine avere il coraggio di coloro che se ne infischiano altamente di tutte le normative e lavorano completamente nel sommerso. Costoro sono a tutti gli effetti i più scaltri, i più coraggiosi e hanno la dignità di non farsi prendere in giro dallo Stato e dal fisco. Marco. Vorrei segnalare che il dibattito sul referendum è tutto incentrato sui primi due quesiti, importanti forse solo per quel che riguarda le preferenze, mentre il terzo quesito, quello che riguarda l'abolizione delle candidature multiple, mi sembra meriti un approfondimento maggiore. Elimina infatti quei candidati famosi che vengono presentati in tutti i collegi per i voti, per poi lasciare il posto a un'altra persona, realizzando un perfetto meccanismo di cooptazione. Paolo. Sono fin dall'inizio un sostenitore di Silvio Berlusconi. Sono stato subito convinto dal suo disegno, naufragato poi per colpa di Umberto Bossi. Ultimamente però credo che Silvio stia esagerando con i suoi temi maniacali, che vedono ovunque complotti. È vero che la sinistra tenta in ogni modo di screditarlo, ma i suoi sostenitori non cascano in questa trappola e lo votano con costante assiduità. Chiedo pertanto al Silvio di non dar peso agli attacchi e di proseguire imperterrito per la sua strada, magari con un po' più di attenzione al nord che rischia di diventare dominio della Lega. Spero che dopo il 3-1 dell'Italia sugli Stati Uniti non veda un disegno della sinistra nel fatto che i tre gol siano stati segnati da Rossi, De Rossi e Rossi. In fondo sono pur sempre degli azzurri. Gianfranco. Caro Gianfranco, ha visto i titoli dei giornali? I Rossi salvano l'Italia. Senza dimenticare la grande vittoria domenica nel Mondiale di Motociclismo di Valentino. Rossi, naturalmente. Ebbene sì, ci sono anche loro. La rivincita della storia fa sì che vincano i Rossi di nome e gli Azzurri di fatto. Ma forse è il caso di ricordare che l'Italia, iniziando dalla sua bandiera, è fatta di Rossi, ma anche di Verdi e di Bianchi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.